Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Alle 17:07 minuti inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana, poi noi ci risentiremo il 27 della settimana pre-natalizia, diciamo il 27 saremo in diretta e poi il programma resterà anche tutti i giorni seguenti. Vedo che ridono dallo schermo, sì, chiaramente non saremo in onda domani e neanche il 26, quindi la settimana per noi è molto molto breve. In realtà, nel porgere subito a voi in ascolto gli auguri per un felice Natale, vi dico i temi di cui ci occuperemo, perché purtroppo avremo anche notizie che riguardano ancora e hanno ancora a che fare con gli sprechi della pubblica amministrazione. Faremo però anche un punto con chi rappresenta le banche straniere in Italia, BNP Paribas, Merrill Lynch, i grandi colossi bancari internazionali, su che cosa sta capitando a questo paese e soprattutto sul perché non si riescano a prestare soldi alle piccole e medie imprese, soprattutto alle piccole imprese, visto con l'ottica appunto di chi rappresenta le banche, i colossi bancari stranieri in questo paese, ma anche un giudizio sull'unione bancaria, che è stato il grosso tema della settimana scorsa a livello europeo. E poi faremo anche un approfondimento più volte annunciato, ahimè sempre rimandato per via di altre notizie di cronaca, su questi Bitcoin, altro tema dell'anno, questa moneta virtuale che ha assunto un valore incredibile, su cui però molti istituti mettono in guardia, a partire dall'ente bancario, l'autorità bancaria europea, che ha detto attenzione, non siete tutelati in alcun modo in caso di perdite. I Bitcoin sono sostanzialmente monete elettroniche nate nel 2009 che sono praticamente 2 milioni in circolazione nel 2010. Adesso siamo a oltre 10 milioni di Bitcoin in circolazione, 70.000 transazioni al giorno, un controvalore di 12 miliardi di dollari. Praticamente pensate che a inizio 2013 un Bitcoin valeva tra i 15 e i 20 dollari, adesso siamo a 650 dollari di valore, però attenzione ai rischi e ne parleremo tra un attimo. Per quello che riguarda, è in diretta o registrato? No, sono in diretta, ahimè, se vuole le dico anche l'ora, mi chiede un ascoltatore, sono le 17:09 minuti e 39 secondi. Siamo in diretta e mi piacerebbe essere registrato, ma insomma siamo in diretta. Le borse sono chiuse, Milano e Francoforte, mentre Parigi e Londra hanno lavorato a metà giornata. Parigi ha chiuso invariata, Londra più 0,23%. Per quello che riguarda le altre notizie sulla borsa, forse vale la pena fare un approfondimento, poi ci torneremo il 27 sulle previsioni. Però il 2013, a questo punto si può già dare un preconsuntivo, è stato un anno più che positivo per la borsa italiana, più 14% l'indice complessivo di Piazza Affari FTSE MIB. L'anno scorso aveva fatto più 8%, due anni fa aveva perso il 20%, molti analisti sostengono che questo sia un anticipo per quello che riguarda la crisi e la ripresa economica del 2014, che la borsa stia scontando una ripresa dell'area euro e anche quella milanese. Devo dire che Parigi ha fatto un più 15%, Madrid un più 18%, Francoforte la migliore, tra le migliori in assoluto, più 23%. E poi c'è il discorso completamente a parte che riguarda gli Stati Uniti. Il Dow Jones ha guadagnato quest'anno, vedremo come andrà nell'ultima seduta, ma il 24%, il Nasdaq il 35%. Ma come vedremo anche da alcuni dati diffusi oggi, gli Stati Uniti stanno marciando a un passo che in Europa è completamente sconosciuto. Chissà se è dovuto a una politica molto accomodante sul fronte del costo del denaro, dello stampaggio dei dollari, di non avere il deficit al 3% e di pensare prima all'occupazione e poi ai conti. Non che i conti non contino, ma voglio dire prima gli occupati e poi anche il deficit. Ma noi qui in Europa siamo ossessionati dagli zero virgola, perché fare 3.2 diventa una bestemmia rispetto a un 2.9, e infatti gli esiti elettorali e dei movimenti politici lo rispecchiano. L'ultima nota su Piazza Affari, due debutti quest'anno, Moleskine che è sbarcata ma non ha fatto dei grandi numeri, mentre il Botto si conferma ancora visto che ha corretto poco, e per Moncler con un debutto, lo ricorderete, lo scorso 16 dicembre, pirotecnico più 47% in un solo giorno, poi un po' corretto ma è ampiamente sopra il 35-40% di valore. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, le altre notizie in breve. Dicevamo degli Stati Uniti, in effetti anche oggi sono arrivati dati positivi e superiori alle attese dagli Stati Uniti. Gli ordinativi di beni durevoli, meglio delle attese, più 3,5% a novembre, contro attese di un 2%, vuol dire che l'industria è ampiamente ripartita. Gli ordinativi ci danno poi quello che è l'andamento previsionale, no, del fatturato delle imprese. I prezzi delle case sono cresciuti, pensate, negli Stati Uniti dell'8% quest'anno, e hanno fatto un più 0,5 solo nell'ultimo mese di ottobre, il dato riferito infatti a ottobre, l'indice, il famoso indice di Schiller, e devo dire che da questo punto di vista un 8% è un recupero notevolissimo nel mercato immobiliare americano, con case che ha case nuove vendute a novembre per un totale di 464.000 unità. A ottobre si toccò un massimo nella vendita di nuove case negli Stati Uniti dai tempi della crisi, dello scoppio della crisi, dal luglio del 2008, che non si vendevano così tante case nuove negli Stati Uniti. Purtroppo, lo dico perché sapete il mio amore per i trader di Wall Street, l'andamento di Wall Street nel 2013 potrebbe spingere verso l'alto anche i compensi, i bonus dei trader e dei manager della finanza. In particolare un più 3% per i banchieri di Wall Street nel 2013, è il primo aumento però dal 2009, mentre per i trader di bond, di obbligazioni, i compensi dovrebbero scendere di circa il 10%. E questa è la fotografia americana. Adesso invece ne scattiamo una che riguarda l'Europa, perché ci sono notizie che riguardano sia la Grecia ma anche l'Italia e i consumi natalizi. Non voglio fare dei facili paragoni, però insomma è innegabile che tutto il resto del mondo è tornato a crescere anche quest'anno, tranne una parte del mondo che si chiama area euro, non Europa, ma non è vero che l'Europa non è cresciuta, l'area euro sì. Io capisco tutto, però forse, come invito a Babbo Natale, come letterina a Babbo Natale, manderei una bella letterina anche a Merkel. Signora Merkel, adesso che è stata riconfermata, è al suo terzo mandato, è di nuovo in grossa coalizione, quindi con i socialdemocratici, può ripensare alle strategie con cui ci sta allietando i Natali dal 2011 in poi? Perché non mi sembra che stiano facendo ripartire i consumi nell'area euro, non mi sembra che l'Europa abbia smesso di avvitarsi, non mi sembra che l'anno prossimo le prospettive di crescita anche per la Germania siano entusiasmanti. E allora forse nella vita ammettere che si è sbagliato prima che te lo facciano capire gli altri, anche ai tedeschi, converrebbe. Vediamo perché. In Grecia, per esempio, è vero che la Grecia lentamente è uscita, la Troica dice che ha fatto ottimi passi in avanti. Dovete spiegarlo però ai 70.000 automobilisti che anche quest'anno hanno riconsegnato le targhe della loro automobile in Grecia, perché non riescono a pagare praticamente la tassa, la nuova tassa di circolazione per il prossimo anno. Praticamente le TV greche mostrano file interminabili davanti agli uffici della motorizzazione civile con i greci con le targhe in mano. L'imposta supera i 1.000 euro per le macchine di lusso, più bassa chiaramente per le altre macchine, però insomma 70.000 gli automobilisti che hanno riconsegnato la targa, mi sembra un gran successo. Immagino che sarà una bella spinta per i consumi interni anche questa. Oppure spostiamoci a casa nostra, noi non abbiamo da riconsegnare le targhe, ci mancherebbe. Però i dati che arrivano oggi dall'Istat sono abbastanza impressionanti su quanto gli italiani stiano risparmiando in cure mediche. Allora, le visite dal dentista meno 23% e più di un italiano su 10 vi ha rinunciato perché non può permetterselo. La prevenzione sanitaria è sempre più una cosa da ricchi. E tra l'altro le persone sopra i 65 anni con risorse economiche scarse o insufficienti sono il 30%, con un disagio particolarmente forte per gli anziani al sud. I multicronici come malati passano dal 13 al 15%. Poi andiamo dalla Coldiretti, che ci spiega come 9 italiani su 10 staranno a casa, spenderanno 97 euro. Il solo 3% andrà al ristorante, il 16% delle famiglie spenderà dai 30 ai 50 euro, il 41% tra i 50 e i 100 euro e una minoranza del 6% si manterrà sopra i 200 euro, il 30% degli italiani spenderà tra i 100 e i 200 euro. Questo per quello che riguarda pranzo, cena e pranzo di Natale. Un italiano su 4 pensa di tagliare fino a metà la spesa. E solo per il 4% il budget per pranzo e cena sarà meno della metà dello scorso anno. Chiediamoci se si può andare avanti così. Lo chiediamo anche al Premier Letta, letterine anche per il Premier Letta, visto che è il momento dei quarantenni. Allora dimostriamo che i quarantenni sanno battere i pugni sul tavolo a Bruxelles e diciamo basta, non all'Europa, all'euro, che sono cavolate di dimensioni galattiche, ma basta a questo modo ragionieristico di gestire l'Europa. È il secondo anno che andiamo avanti così, non sta portando da nessuna parte. Allora, nel frattempo, dopo questo appello a Angela Merkel e questi dati obiettivamente impressionanti dalla Grecia, noi andiamo a battere i pugni a Bruxelles. Resterà anche il prossimo anno la linea di questo programma: ti imponi con Bruxelles perché non ha più senso questa Europa a trazione tedesca con questo rigore inutile, con un fiscal compact. Premier Letta, ci parli del fiscal compact nell'anno prossimo, perché sono 48 miliardi che dobbiamo tagliare al debito pubblico nel 2015 per 20 anni. Come faremo? Non lo so, però siamo tutti più buoni, è Natale, la invito calorosamente a chiederci a spiegarci come faremo a mantenere il fiscal compact promesso alla Germania e agli altri partner del nord a partire dal 2015. Però si va in Europa, si battono i pugni, si pone anche il veto su qualunque cosa, non si può morire per il 3% del Menga, e a casa nostra facciamo i compiti e evitiamo di dover raccontare ogni giorno queste deliziose amenità. Allora, siamo sotto Natale, però io chiedo alla Regione Lazio, ma perché per stampare il bilancio di previsione del 2014, con i numeri che avete poi, avete fatto 8200 pagine di fotocopie? Cioè, siamo nell'era del digitale, ma date un dischetto, una chiavetta USB ai 51 consiglieri che si sono visti recapitare appunto il bilancio della Regione Lazio. Il consigliere Teresa Petrangolini scrive praticamente che per stampare sto fondamentale bilancio di previsione di una regione che ha dei buchi stratosferici sono stati abbattuti 8 pini di 15 metri e molti italiani questi 8 pini di 15 metri li avrebbero utilizzati in un altro modo per i consiglieri della Regione Lazio. Immaginabile la felicità dei commessi impegnati nel Parlamentino della Pisana, che hanno dovuto consegnare a ogni eletto e a ogni assessore il carteggio. Sono 500.000 di pagine, 500.200 pagine divise in 8 voci, perché appunto ogni bilancio sono 8.200 pagine. Le 8 voci fondamentali da studiare nei master di tutto il mondo: la legge di stabilità, 56 pagine, il bilancio di previsione e il previsionale 2014-2016 564 pagine, il consuntivo 2012 1760 pagine, il consuntivo 2012 del Consiglio del Lazio suddiviso in 100 altre 5 pagine, il documento economico e finanziario di 70 pagine, oltre ai circa 5500 emendamenti e ordini del giorno. Vabbè. E su richiesta dei consiglieri del centrodestra il materiale è stato stampato e distribuito nell'aula. Il dibattito sul bilancio 2014 è iniziato nei giorni scorsi e proseguirà dopo la pausa natalizia. Allora, visto che l'avete voluto sto bilancio, queste 8200 pagine per un totale di 500.200 pagine, come compito per le vacanze il consigliere della Regione Lazio venerdì quando tornate al lavoro me lo dovete averlo letto, imparato, non a memoria, ci mancherebbe, spulciato, perché solo così giustificherete gli 8 pini di 15 metri che potevano essere utilizzati in altro modo. Ma qui siamo alle quisquiglie. Siamo alle quisquiglie perché in realtà poi scopriamo anche che i magistrati del Consiglio Superiore della Magistratura, nessuno vuole far polemica con l'autonomia della magistratura, ma ci mancherebbe, eh? Però mi spiegate perché il CSM ha un budget del 34% più alto per l'anno prossimo? Ha già messo in conto per i contribuenti il CSM per il prossimo anno la bellezza di 43.877.000 euro, e siccome quest'anno ne ha spesi 32.700.000, a casa nostra fa un banalissimo 34% di spese in più per il CSM, per il Consiglio Superiore della Magistratura, l'organo di vigilanza dei magistrati. Perché? Non si capisce. Si prevede alla voce assegno componente un esborso di 1.600.000 euro, superiore del 20% al 2013. Perché l'assegno dei componenti del CSM deve aumentare del 20%? Ce lo può spiegare Michele Vietti o lo stesso Presidente della Repubblica, che è Presidente anche del Consiglio Superiore della Magistratura? Poi dovrebbero spiegarci perché viaggiano così tanto i componenti del CSM e prevedono di farlo sempre più, tra l'altro missioni in mezzo mondo. Ma Vietti, ma che succede? Stati Uniti, Argentina, Russia, Francia, Iraq, Afghanistan, ma che cavolo ci va a fare il CSM in Iraq e in Afghanistan? Pensate che nel 2013, all'inizio, la voce rimborso spese attività estero componenti valeva 45.000 euro, non sufficienti infatti a fine anno. Hanno dovuto spendere in tutto quasi 100.000 euro, e per il 2014, per non sbagliarsi, hanno messo a bilancio già 130.000 euro per i viaggi all'estero dei componenti del CSM. E poi ci sono i rimborsi per attività fuori confine, che quest'anno vengono portati da 34.000 euro dell'anno scorso a 110.000 euro del 2014, fa più 37%. Scusatemi, più 224%. E poi le spese per la previdenza integrativa, l'assicurazione sanitaria e la formazione dei dipendenti cresceranno del 48% nel Consiglio Superiore della Magistratura, passando da 885.000 euro a 1.300.000 euro. Perché? E beh, attenzione, perché è in arrivo un ambizioso programma formativo in favore del personale dipendente che andrà in parallelo con un importante programma di formazione linguistica in favore di componenti e magistrati addetti alla segreteria. Ma Michele Vietti, che lei appunto è vicepresidente del CSM, ma mi spiega che cosa vuol dire un importante programma di formazione linguistica in favore di componenti e magistrati? Formazione linguistica di una lingua straniera? Cioè, diamo per scontato che l'italiano lo sappiano i magistrati del CSM e anche i segretari. Chiedo, quale lingua? Perché? Avremo le sentenze in inglese? Chiedo, le rogatorie le farete direttamente? Non lo so. Da 885.000 euro a 1.300.000 in un anno. Vabbè, meno male che per i buoni pasto dei magistrati e del personale si passa da 330.000 euro a 370.000 euro, solo un 10%. E poi in realtà è un più 12 l'energia elettrica, per fortuna pagheranno un po' meno, invece che mezzo milione di euro 365 mila euro. Io potrei andare avanti con il CSM, mi dovete spiegare comunque perché hanno messo a bilancio mezzo milione di spesa elettrica, anche se hanno speso molto meno. E poi la messa in sicurezza e la manutenzione dei locali, quest'anno hanno speso 816 mila euro, l'anno prossimo 1.300.000. Gli arredamenti dei mobili, quest'anno hanno speso 70.000 euro, il prossimo anno spenderanno 106.000 euro. E poi i mitici quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura continueranno a stamparli con fotocopiatrice, ma qui sono tutti innamorati della carta in questo paese. E infatti il centro stampa del CSM avrà un budget più alto del 17%, pari a 35.000 euro di spese postali e telegrafiche. Ma c'è l'email, ci sono le chiavette, ma volete spiegarle ai magistrati del Consiglio Superiore della Magistratura? Per comprare e rilegare libri, il CSM spenderà l'anno prossimo 95.000 euro, 10% in più. Vado avanti, vi voglio proprio rovinare il Natale, così vai attraverso il cenone stasera. Chiudiamo con Scarpellini. Chi è Scarpellini? È il mitico soggetto immobiliarista che affitta i palazzi della Camera, ma non solo. Allora, ci sono due belle interviste di Scarpellini oggi, no? Allora, lui ha guadagnato in 17 anni mezzo miliardo di euro, ha incassato, non li ha solo guadagnati perché poi ci paga anche i dipendenti e le tasse, però mezzo miliardo di euro di affitti, capirai, no? Pagati da noi perché li paga la Camera che non ha abbastanza spazio, ecco perché si possono ridurre i deputati, così riduciamo i deputati, i senatori e vedrai che lo spazio si trova. Lui dice che la mossa del Movimento 5 Stelle, quella che poi un emendamento, una manina notturna ha levato, poi se ne sono accorti sia la Lega che il 5 Stelle, adesso tutto è slittato nel decreto mille proroghe, la possibilità di interrompere un contratto anche senza preavviso dovuto, lui dice che è assolutamente illegale e anticostituzionale. Comunque lui ogni anno in tasca 48 milioni di euro, che servono anche per pagare i dipendenti, perché Montecitorio spende 30 milioni e mezzo di euro a ogni bilancio. Sono tre contratti per il Palazzo Marini, scadenza 2016-2018, e poi tutto un resto di amenità. E dice, dopo le tasse non mi resta mica tanto. La cosa interessante è che Scarpellini ammette che con questi soldi lo Stato poteva comprarsi questi palazzi, e ammette anche di aver distribuito in questi anni 650.000 euro di legali, ci mancherebbe, 650.000 euro di finanziamento da privato ai partiti. Chissà se tutto questo suo, a destra e a sinistra, chissà se tutto questo suo amore, perché è un gesto nobile dare i soldi anche per la causa politica, 650.000 euro non sono pochi, chissà se questo poi ha avuto una qualche influenza nel fargli assegnare senza gara, quindi un contratto senza gara dal lontano 97, senza un bando pubblico, appunto la possibilità di affittare alla Camera, soprattutto alla Camera, per 38 milioni di euro l'anno, che poi ripeto diventano 44 ogni anno. Chissà se aver finanziato i partiti a qualcosa è servito. Adesso andiamo in pubblicità, poi abbiamo anche un sogno, poi l'intervista con chi rappresenta le banche. Volete sapere quando arriverà l'astrologa? L'astrologa ci sarà il 27. Il 27 facciamo una puntata con l'astrologa e con uno dei più grandi gestori di fondi di questo paese, di private equity, così vediamo se la pensano. Vedo molti messaggi su questo. No, non vi voglio rovinare Natale, però non posso smettere di parlare solo perché è Natale. Poi il carbone non arriva mai per sta gente. Bah. Michele Vietti, aspettiamo risposte, ci spieghi perché il Consiglio Superiore della Magistratura ha in bilancio il 34% in più rispetto al 2013, se non ve ne foste accorti il paese soffre, eh? Occhio, perché poi tra i palazzi non ci sono solo quelli della politica, dai, meglio che stia zitto. Hey. Buon Natale a tutti, buon Natale a tutti. No, c'è qualcuno che mi accusa, mi ha rovinato il Natale, grazie. No, ma io ve l'avrò anche rovinato, però poi pigliatela col CSM in questo caso, no? Con questi magistrati, ma cosa serve? Il corso di lingue per i magistrati, le missioni in Afghanistan e in Iraq, il CSM. Ma state a casa a lavorare, basta. 45.000 euro, anzi 100.000 euro quest'anno di missioni. 1.300.000 euro per un importante programma di formazione linguistica. Io voglio vederli tutti fare le sentenze in inglese, perché 1.300.000 euro a questo punto, no? The cat is on the table e via così. Allora, nel frattempo abbiamo messo questa base perché la testa del governo è veramente una giungla. È appena uscita una notizia: il ministro dei rapporti con il Parlamento, Dario Franceschini, ha informato in questo pomeriggio i presidenti di Senato e Camera che sostanzialmente il governo rinuncia alla conversione del decreto a enti locali in scadenza il 30 dicembre, cioè rinuncia al disegno di legge Salva Roma. Abbiamo scherzato fino adesso. E la polemica a cui facevamo riferimento su quanto paga la Camera di affitti a un'unica persona entrerà, come già stabilito, però nel milleproroghe, nel decreto milleproroghe, con la correzione per la gelida manina che ha fatto il no? La furbata notte tempore, quindi per evitare questa figura, faranno anche la correzione e verrà approvato dal Consiglio dei Ministri il prossimo 27 dicembre. Saremo in diretta a raccontarvelo. Leggo il messaggio di un ascoltatore che dice: mi ero appena confessato, ma mi sa che dopo sta puntata mi tocca ritornarci in chiesa. Vabbè, mi dispiace averle causato questi monti. Andiamo con le banche, dai, che ci distraiamo un attimo, se fa per dire. Come le banche straniere vedono il tessuto di imprese italiano, questo paese, e perché anche loro hanno difficoltà a prestare i soldi alle piccole imprese italiane. Eh sì, parliamo del rapporto banche-imprese, perché è stato uno dei temi più importanti dal punto di vista economico-finanziario anche in questo finale d'anno, non solo per, come vi abbiamo raccontato la scorsa settimana, per l'accordo raggiunto dai paesi europei sul meccanismo che, diciamo così, farà fallire le banche in modo controllato, evitando che il fallimento di una singola banca metta a rischio l'intero sistema finanziario di quel paese, e poi con un effetto domino a catena, ed è una seconda tappa per l'unione bancaria dopo che è già passata la supervisione della Banca Centrale Europea sui principali istituti europei, non su tutti, ma diciamo sostanzialmente sui primi 100, sulle prime 100 banche dell'area euro. Tra l'altro è interessante notare come tra 2008 e 2011 i paesi dell'Unione Europea hanno usato quasi 4.000 miliardi di euro per sostenere il settore finanziario. Qui rientra anche la Gran Bretagna, non è solo l'area euro, però insomma l'obiettivo di quello che è stato approvato a Bruxelles è di spezzare il legame o allentare il legame tra banca e Stato sovrano, perché sennò si rischia l'effetto domino: salta per aria la banca X, viene messa a repentaglio la tenuta finanziaria e quindi anche il debito del paese a cui questa banca appartiene. In questo modo invece, l'abbiamo anche spiegato, con il fallimento ordinato saranno i primi a pagare, saranno i privati, e quindi azionisti, obbligazionisti subordinati, obbligazionisti senior, correntisti sopra i 100.000 euro, e poi solo in seconda battuta scatterà il sostegno esterno. Lì abbiamo anche raccontato lo scontro tra Francia e Italia, cioè con Francia e Italia che premevano per un fondo europeo unico con una capacità di agire velocemente, dall'altro invece la Germania più propensa a gestire gli aiuti pubblici a livello di singole nazioni. Temeva infatti di dover pagare anche per altri paesi. Ma detto ciò, si è parlato molto di banche in questo finale d'anno, anche perché a casa nostra l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, ha fatto notare come da un lato la crisi abbia portato a 100 miliardi le sofferenze delle banche, cioè i prestiti concessi che difficilmente verranno ritornati da chi li ha da chi li ha sottoscritti, ma dall'altro con un rapporto tra sofferenze e impieghi alto, al 7,7%, siamo ai massimi dal 1999. Questo a dire, per essere proprio corretti, che anche le banche stanno soffrendo su incagli e sofferenze per la crisi. Dall'altro però è innegabile che di nuovo sia calato l'ammontare di prestiti che le banche hanno concesso a privati e famiglie, a imprese e famiglie, scusatemi, soprattutto alle imprese, un meno 4% anche a novembre, che è il dato peggiore come calo dal 1999, dal giugno del 99. Di questo parliamo oggi con chi rappresenta le banche, le 39 banche estere che operano in Italia, e mi riferisco al presidente dell'AIBE, Associazione tra le banche estere in Italia, Guido Rosa. Buonasera e bentornato. Buonasera, grazie. Lei appunto rappresenta gruppi tra cui, non so, BNP Paribas, JP Morgan, Credit Suisse, Royal Bank of Scotland, ING, Morgan Stanley. E la prima domanda, alla luce di quello che stavo raccontando, è molto semplice. Dal punto di vista degli investitori stranieri, delle banche straniere, qual è il problema a finanziare le nostre piccole e medie imprese, soprattutto le piccole? Perché poi quando parliamo di scarsi finanziamenti, diciamo una mezza verità, i finanziamenti sono scarsi o scarsissimi o inesistenti per quel 97% di imprese in Italia che sono di dimensioni piccole. Le altre, diciamo, hanno qualche facilità in più. Rosa. Allora, una premessa è doverosa, che le banche internazionali, quelle che hanno rappresentanza nei paesi sotto forma di succursali, hanno come vocazione loro quella di lavorare con i grandi gruppi internazionali. Questo non è vero solo in Italia, è vero in tutti i paesi, per due ragioni. Primo, per la tipologia di prodotti che offrono. E secondo, perché essendo appunto banche internazionali trovano un corrispettivo importante e naturale nei grandi gruppi internazionali. Questo mi sembra che sia assolutamente chiaro ed è vero qui in Italia come in tutti gli altri paesi. Detto questo, e detto che in questo ruolo le banche straniere hanno e stanno facendo cose molto importanti dal punto di vista dell'erogazione del credito, c'è effettivamente da dire che il rapporto con le piccole e medie aziende italiane è scarso, se non nullo. Questo non è vero per tutti, poi ritorneremo su questo argomento, perché ci sono alcune realtà, quelle delle banche a sportello, che sono state acquisite da banche straniere, che è vero. Allora, perché le banche straniere non riescono a operare, a lavorare con le piccole e medie aziende? Dico bene riesco, perché è già ormai, la mia esperienza me lo insegna, che più di qualche gruppo e a più riprese si sono posti il problema di come allargare la loro base clientela dai grandi gruppi ai piccoli e medi gruppi, visto che la realtà economica italiana è fatta sostanzialmente di grandi gruppi. Ogni volta che questo studio in qualche modo è stato avviato, in realtà poi la conclusione metodologica, naturalmente fatte salve alcune piccole eccezioni, è che purtroppo non ci sono le condizioni perché le grandi banche internazionali sotto forma di succursale lavorino con le piccole e medie aziende. E questo è dovuto sostanzialmente a tre motivi. Il primo è che le aziende italiane in generale, ma soprattutto le piccole e medie, sono sottocapitalizzate. Questo ormai lo indicano tutti i report delle banche centrali o comunque di tutte le autorità, di alcuni punti rispetto alla media europea. E sappiamo tutti che il capitale non è sostituibile dal debito. La seconda ragione è che molto spesso i bilanci, i conti di queste piccole e medie aziende non sono sufficientemente trasparenti da poter lavorare basato sull'analisi di quei conti. La terza ragione, che è conseguente alla seconda, è che eventualmente per poter lavorare con questi gruppi uno ha bisogno di avere una presenza fisica nel territorio molto stretta, perché è solo la conoscenza dei proprietari, della realtà, che può sostituire l'analisi societaria attraverso i bilanci, i numeri, cash flow, eccetera. E questo mi porta a dire che tutta quella realtà che io ho descritto riguarda appunto le 40 succursali. Però in Italia ci sono 3-4 grandi banche che sono state acquisite da gruppi stranieri, che hanno rete di sportelli e che quindi loro sì lavorano con molto di più di quanto non facciano le succursali con le piccole e medie aziende. Sì, però a me interessa capire una cosa, Rosa. ho capito, lei dice, strutturalmente le banche internazionali preferiscono, tendono a lavorare con i grandi gruppi già presenti, magari anche nei paesi da cui provengono, con cui hanno esperienza, che hanno una proiezione più internazionale. Però, insomma, dal punto di vista delle banche straniere, qual è il problema, perché delle piccole e medie imprese italiane, delle piccole imprese soprattutto? Cioè, non è che non si riesca a valutare un tessuto come quello italiano, che non è fatto come quello tedesco di grandi gruppi, ma è fatto di 97% di piccole e medie imprese, magari in filiera, magari in distretto, in rete, ci auguriamo. Allora, i suoi associati, quando parlano di questa Italia fatta di distretti, fatta di milioni di imprese che probabilmente di cui il nome non è conosciuto, ma poi sono fornitori, subfornitori, quant'altro, cosa lamentano? Non riescono a capire il modello italiano? Non riescono a capire qual è il problema? Allora, qui c'è il vero problema, quello che lei sta dicendo, Barisone, è proprio il grande problema. Cioè, l'Italia, analizzata nel suo complesso, in realtà presenta dei punti di straordinaria forza. La piccola media azienda italiana è straordinariamente forte, i distretti vanno benissimo, la forza del sistema delle piccole e medie aziende è riconosciuta a livello internazionale anche dalle banche internazionali. Il problema è che quando uno fa il lavoro di banchiere, di banca, deve forzatamente calarsi dall'analisi macroeconomica alla singola realtà, ed è lì dove nascono i problemi che vi dicevo prima, che sono i problemi della sottocapitalizzazione e della mancanza di trasparenza. Quindi sostanzialmente questi due, sottocapitalizzazione e mancanza di trasparenza nei bilanci, diciamo, perché bilanci, c'è anche, certo, questo va detto, molte piccole imprese sono abituate ad avere una contabilità così artigianale, c'erano altri rapporti con la banca del territorio, ma erano altri anni, questo va detto anche agli imprenditori, erano anni in cui il credito si erogava facilmente, non costava nulla, poi abbiamo scoperto perché tanto il rischio la banca non se lo prendeva, lo girava, lo spezzettava con strumenti più o meno derivati che hanno infestato poi il pianeta. Però adesso il denaro costa poco formalmente, ma i rischi non è più possibile spalmarli come nel passato. Ecco perché poi la trasparenza diventa ancora più importante. Secondo aspetto, rapidamente, l'unione bancaria. Le piace l'accordo raggiunto? Sì, in linea di principio credo che sia un passo avanti notevole. Naturalmente molti dicono che non è sufficiente, che soprattutto è molto dilazionato nel tempo, e questa è la realtà. Detto questo, così come io personalmente, per esempio, sono, per quanto riguarda l'Italia, penso che l'unica cura sia quella di una cura radicale in quanto attiene alle cosiddette riforme, bisogna riconoscere che l'Europa è un'entità molto più complessa, e pensare di poter costituire un'unione totale, non delle banche, ma dei mercati finanziari e delle aziende e del sistema finanziario in poco tempo è irrealistico. Bisogna per forza di cose procedere per passi, anche perché le realtà finanziarie e economiche dei vari paesi, come noi sappiamo, sono molto diverse l'una dall'altra. Quindi questo è un primo passo, non è definitivo, è probabilmente troppo lungo nel tempo nella sua applicazione. Le risorse che vengono messe a disposizione per i salvataggi, quelle ai quali lei accennava prima, che sono fondamentali, perché sennò la contaminazione fra banca e Stato diventa mortale, sono probabilmente troppo poche, però fondamentalmente mi sembra che sia un buon passo avanti. Aggiungo che la vigilanza europea, che invece quella parte, insomma, anche se scaglionata del tempo, è un punto fondamentale, perché avere le regole del gioco uguali nel campo in tutti i paesi è fondamentale, e lo sarà anche per l'Italia, anche perché sappiamo che la vigilanza italiana è più severa rispetto ad altri paesi. Rosa, è vero, ha ragione, io la ringrazio, le auguro buon Natale, perché insomma ci interessava fare il punto con lei come ogni anno. Non mi sembra di aver ricevuto grandissime notizie, diciamo, entusiasmanti per le nostre piccole imprese. Fa bene però anche ricordare che delle volte occorre maggiore trasparenza. Vedo molti messaggi sui bitcoin. Non posso chiedere a un banchiere cosa pensa dei bitcoin, lo chiederò invece a chi questi bitcoin, cosa sono i bitcoin. È una moneta virtuale, partiamo da qua. Perché se ne occupiamo? Perché da inizio anno valeva, un bitcoin valeva circa 70 dollari, anzi meno, valeva 15 dollari a inizio anno, 30 dollari a febbraio. Il 24 novembre lo stesso bitcoin ha raggiunto il valore di 1224 dollari, adesso è di nuovo sceso a 640, a dimostrazione che è rischioso, perché chi l'avesse comprato il 24 novembre adesso si trova col capitale dimezzato. Però la cosa interessante è che iniziano a sorgere i primi bancomat e le prime società che accettano come pagamento, invece che la moneta vera e propria, quella ufficiale, dollaro, euro, yen, accettano la moneta virtuale. Ha aperto in Finlandia il primo bancomat per i bitcoin. Come funziona? Tu metti dentro i soldi, le banconote, e il dispositivo ti invia una quantità corrispondente di bitcoin sul portafoglio virtuale dell'utente. A Vancouver esiste da oltre un mese un bancomat per i bitcoin e tra l'altro basta c'è uno scanner che riconosce il palmo della mano per impedire un prelievo oltre 3.000 euro canadesi al giorno, che è il massimo, dollari canadesi al giorno, che è il massimo consentito in Canada dalla legge antiriciclaggio. E poi negli Stati Uniti una casa in vendita negli Hamptons, mitico luogo dell'upper class americana, costa $800,000 oppure si può pagare in bitcoin. E anche il plurimiliardario Richard Branson, proprietario della Virgin, ha dato il via a fine novembre al pagamento in bitcoin per viaggiare nello spazio a bordo della sua Virgin Galactic. Vabbè, dai, Branson, quando uno c'ha troppi soldi non sa più cosa fare nella vita. Che cos'è Bitcoin? Si scarica un apposito software, si crea un account online presso uno dei tanti siti che fanno da interfaccia e li si scambia con divise tradizionali. Chiunque può battere moneta attraverso il software. Vorrei capire esattamente come funziona, però, da Christian Testa, che è analista di Cashless Way, prima associazione in Italia e in Europa per diffondere la cultura del pagamento elettronico, che vuol dire in primo luogo carte di credito. Buonasera e Bancomat. Buonasera. Allora, mi dica una cosa, io vado su questo, mi scarico un software, creo un account online e poi che faccio? Metto i soldi? Come faccio a acquistare questi bitcoin? Allora, quello che ha citato adesso è il metodo di acquisto di bitcoin più caratteristico. Sì, andiamo su questo, restiamo su questo. Che è denominato appunto mining, cioè letteralmente minare, cioè tutti gli utenti a far parte della community bitcoin hanno la possibilità di estrapolare da questo sistema all'incirca ogni 10 minuti un quantitativo di bitcoin. Se posso scendere ulteriormente nel dettaglio, evitando però no, io voglio capire una cosa, mi scusi, io scarico questo software, scarico questo software, ok, creo un account e come faccio a acquistare bitcoin? Allora, facciamo questa differenziazione. Allora, si può acquistare il bitcoin su piattaforme informatiche che permettono lo scambio tra chi ce li ha e chi li vorrebbe avere. E come li acquisto? Con una carta di credito normale? Cioè, pago euro? Come pago? Sì, può pagare attraverso una carta di credito, li può acquistare attraverso dei passaggi di denaro tramite banca. Su queste piattaforme ce ne sono molte, una delle più grandi tra l'altro è in Cina. Oppure può accettare per la sua attività, faccio presente che al momento esistono circa 15.000 aziende nel mondo che già accettano pagamenti. Cioè lei mi paga in bitcoin, io li accetto, va bene? Dopodiché li può utilizzare appunto come vuole. Dopodiché c'è appunto il mining, di cui parlavamo in precedenza, in cui sostanzialmente attraverso il suo computer di casa, che però deve essere un computer molto potente sia da un punto di vista del processore che per quanto riguarda la scheda grafica, a cui viene sottoposto al computer dell'utente e a tutti quelli che fanno parte della rete un quesito matematico. Il primo computer che riesce a risolvere questo quesito matematico, che è basato su un algoritmo complesso che si chiama SHA-256, il primo computer che appunto riesce a trovare la soluzione a questo quesito viene premiato con l'emissione di un blocco di bitcoin che in questo momento corrisponde a 25 bitcoin. Ecco, due domande sì, mi dica, perché siamo in chiusura. La prima, io una volta che vengo, se lei mi paga in bitcoin, io poi questo bitcoin non lo posso mica convertire, o posso convertirlo in dollari, in euro? Una volta che il bitcoin è stato emesso, lei può utilizzarlo per fare acquisti. Sì, va bene, bitcoin lo può trasformare attraverso le piattaforme di cui parlavamo in precedenza, lo può trasformare in dollari, euro, nella valuta che vuole. Ecco, l'altra cosa, non le sembra un po' rischioso però comprare una valuta che valeva $15 un bitcoin a inizio anno, poi ne valeva 20 a febbraio, $240 ad aprile, poi è scesa di nuovo a $69 a luglio, poi è risalita a $130 a settembre, a inizio novembre è arrivato a $215, il 24 novembre valeva $1224, adesso vale $650, ma uno come fa a starci dietro? Nel senso che l'euro oscilla sul dollaro a 1,30, 1,10, 1,40, ma più o meno sei lì. Qui uno pensa di avere $1000 o $10,000, poi scopre che ne ha la metà o ne ha anche un decimo, no? Indubbiamente in questa fase le enormi oscillazioni di prezzo sono un problema per la moneta elettronica. Qui però devo fare una piccola precisazione. Parliamo di un fenomeno che ha avuto una portata e una eco globale enorme in questi ultimi mesi, ma parliamo di un fenomeno che ai valori attuali rappresenta un'economia che ha un controvalore di $8 miliardi, quindi un fenomeno piuttosto piccolo da questo punto di vista. Tanto per darle un esempio, il PIL di una piccola regione italiana come il Molise nel 2012 è grosso modo equivalente. Allora, lei in 30 secondi mi deve dire se in questo momento lei ha sua mamma o a sua moglie o la sua fidanzata, l'amante non la cito, diciamo, suggerirebbe l'acquisto di Bitcoin oppure no? E per in questo momento le spiegherei che il Bitcoin è forse il primo passo verso un futuro molto molto interessante. Di qui ad investire non lo so, perché altrimenti si rischia veramente di giocare ad una sorta di speculazione infinita, però è comunque un primo passo, perché il Bitcoin, questa poi è la caratteristica più interessante, forse qualcuno l'ha definito un dollaro con il teletrasporto, cioè offre una possibilità impensabile fino a pochi anni fa di trasferire denaro contante subito utilizzabile in tempo reale. Questo è vero, cioè un money transfer. Senta, se fosse invece la sua ex fidanzata, glielo consiglierebbe? Ah, no, siamo sotto Natale, per cui evito di dire. Va bene, allora buon Natale anche a lei. Non so che rapporto avesse con la ex fidanzata. Grazie a Cristian Testa, analista di Cashless Way. È vero però quello che ricordava, che in questo momento il vantaggio più grosso è la possibilità di trasferire denaro in maniera digitale, in maniera rapidissima. Ultima parte di Focus Economia. Allora, vorrei chiudere questa puntata, visto che oggi il programma finisce alle 18, come finirà fino al 5 gennaio, con un appello a Babbo Natale, a tutti quelli che ci ascoltano. Ce la facciamo? Un sogno per Natale? Possiamo farlo? Sì, dai. I have a dream. And one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Caro Babbo Natale, ti prego, visto che siamo stati così bravi e così buoni, l'anno prossimo evita al sottoscritto di dover commentare l'assunzione di avvistatori per neve nella regione Friuli Venezia Giulia, di prototipi per l'avvistamento di uccelli pagati decine di migliaia di euro nella regione Lombardia, di consiglieri regionali della regione Piemonte che avevano già acquisito il teletrasporto e riuscivano a pagare scontrini in contemporanea a migliaia di euro di distanza, dei camminatori siciliani, dei corsi di macramè pagati sempre dai contribuenti italiani, di un CSM che spende 1.300.000 euro per i corsi di lingue e delle 500.000 pagine per il bilancio stampate ieri dalla Regione Lazio. Caro Babbo Natale, se esisti batti un colpo, se no li batteremo noi i colpi anche a questa classe politica. Da Sebastiano Berisoni l'auguro di un buon Natale, noi ci risentiamo il 27, un ringraziamento come sempre a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza al programma.